La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'intenzione della Grecia di procedere alla richiesta formale alla Germania delle riparazioni di guerra per l'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Il dibattito sugli indennizzi di guerra si trascina a fasi alterne dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e oggi torna di attualità in seguito alle misure di austerità imposte dalla Germania. Ospite ai nostri microfoni lo storico Lutz Klink Hammer. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato al carro armato, padrone indiscusso del campo di battaglia. Per tutto il XX secolo è stato l'elemento decisivo per la moderna guerra in movimento, il fattore determinante in molte delle più grandi battaglie della storia. La parola va a Dino Pesole. Una sorta di ritorsione, per così dire, contro le misure di austerità imposte dalla Germania nel corso degli ultimi mesi? Se ne è parlato sui giornali nei giorni scorsi e non sono mancati i commenti anche polemici. La notizia è, o sarebbe, che la Grecia avrebbe intenzione di procedere alla richiesta formale alla Germania delle riparazioni di guerra per l'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi ricorreremo a tutti i mezzi possibili per arrivare a un risultato. Nessuno può cancellare la memoria, ha detto parlando in Parlamento il ministro degli esteri greco Dimitri Avramopoulos. Il ministro ha spiegato che durante l'inchiesta avviata per stabilire se Berlino sia ancora in debito con Atene, sono state accumulate migliaia di pagine di importanti documenti. Ora, ha aggiunto, il governo greco deciderà come procedere per vie legali, senza però specificare quale somma sarebbe chiesta alla Germania. Questa è una questione che è rimasta aperta per 60 anni, ha detto ancora il ministro, ed è una questione troppo importante per essere stretta nel dibattito della crisi del debito. E ha ribadito che la decisione non è collegata alla questione del salvataggio fiscale del paese e le conseguenze pesantissime attraverso le misure di austerity che se ne sono state imposte alla Grecia e che saranno le corti internazionali a decidere. Secondo Atene, durante l'occupazione tra il 1941 e il 1944, la Germania costrinse la Grecia a rinunciare alle proprie riserve aurifere e a versare fondi attraverso un prestito forzoso, senza contare la distruzione delle infrastrutture e le atrocità sofferte dai greci per mano dei nazisti. Berlino ha versato alla Grecia circa 115 milioni di marchi nel 1960, il corrispettivo di 300 milioni di euro attuali, e ha rifiutato ulteriori richieste di compensazioni. La notizia, apparsa su un quotidiano greco con il titolo «La Germania è in debito con la Grecia», è stata subito ripresa dal tedesco Der Spiegel, che ha citato il rapporto segreto di Atene. Il Consiglio nazionale per le riparazioni di guerra tedesche ha stimato che la Germania deve alla Grecia 162 miliardi di euro di risarcimento, circa l'80% dell'attuale PIL ellenico. La notizia naturalmente ha riacceso il dibattito sulla questione degli indennizi da parte della Germania, questione che, come sappiamo, si trascina a fasi alterne dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel febbraio dello scorso anno, lo ricordiamo, fece un certo scalpore la decisione della Corte di Giustizia dell'AIA che accolse il ricorso della Germania contro l'Italia per ottenere il blocco delle indennità alle vittime dei crimini nazisti. Secondo la sentenza, l'Italia ha mancato di riconoscere l'immunità riconosciuta dal diritto internazionale a Berlino per i reati commessi dal Terzo Reich. La Corte accolse tutti i punti di ricorso presentati dalla Germania, che accusava l'Italia e il suo sistema giudiziario di venire meno ai suoi obblighi di rispetto nei confronti dell'immunità di uno Stato sovrano, come la Germania, in virtù del diritto internazionale. La Corte dell'AIA ha poi concordato con la richiesta di Berlino di ordinare all'Italia di prendere tutte le misure necessarie affinché le decisioni della giustizia italiana che contravvengono alla sua immunità siano prive d'effetto e che i suoi tribunali non pronunzino più sentenze su simili casi. La sentenza venne emessa dopo che nel 2008, per la prima volta, la Corte di Cassazione aveva condannato lo Stato tedesco a risarcire i familiari delle vittime delle stragi compiute durante l'occupazione tedesca. Abbiamo in linea lo storico Lutz Klinkhammer, che è autore di diversi libri sulle stragi compiute dai nazifascisti in Italia dopo l'8 settembre del 43, e in particolare si è occupato insieme a Filippo Focardi proprio del tema dei risarcimenti alle vittime italiane del nazionalsocialismo e anche in genere in Europa. Buonasera professore, grazie per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Buonasera. Allora, abbiamo di nuovo il tema degli indennizi e dei risarcimenti. Questa questione della Grecia ci offre l'occasione per ridiscuterne anche al di là del fatto di cronaca di per sé, perché non si capisce bene se poi questa notizia apparsa sui quotidiani greci e ripresa da quelli tedeschi abbia un fondamento. Però, tuttavia, evidentemente il tema esiste. Sì, il tema esiste ed è arrivato anche al dibattito del Parlamento di Atene, quindi è stato raggiunto, diciamo, un nuovo livello per quanto riguarda questa idea di rivendicazione di riparazioni, e anche se il primo ministro non era presente al dibattito parlamentare, il ministro degli esteri appunto ha dichiarato che si voleva cercare di arrivare ad un risultato, e parlava anche di tribunali internazionali eventualmente da interpellare, senza però dicendo di quali tribunali si doveva trattare. Comunque il tema è molto, molto attuale, e il pubblico greco, soprattutto nella situazione attuale di crisi, è molto sensibile, per certo. Questo tema. Però direi anche che il tema è vivace e sensibile per il pubblico greco anche a causa dei conti col passato, che forse sono stati fatti in Grecia anche, non sono stati fatti per lunghi anni. Certo, anche questo è un problema serio. In ogni caso, questo tema delle riparazioni è stato trattato dalle singole corti, e noi abbiamo citato anche la decisione che venne assunta dalla Corte dell'Aia per quel che ci riguarda, ma i termini della questione, al di là degli aspetti giuridici, investono anche questioni che sono, come dire, di carattere politico e diplomatico a distanza ormai di oltre 60 anni da quegli eventi, non crede? Sì, senza dubbio. Bisogna anche distinguere tra il problema delle riparazioni di guerra e questioni come un prestito forzoso, tra l'altro già accettato all'epoca stessa dai nazisti, che cominciarono a ripagarlo e poi è stato smesso il pagamento. Per quanto riguarda le riparazioni, tutto è stato congelato durante la conferenza di Londra del 1953, che è arrivato alla conclusione che tutta la questione delle riparazioni e dei debiti della Germania doveva essere risolto dopo un trattato di pace, ma questo trattato di pace è arrivato, diciamo, soltanto con la riunificazione delle due Germanie e il relativo con patto 2+4 del 90. E da questo punto in poi si doveva eventualmente porre la questione della rivendicazione delle riparazioni di guerra, anche se era già intervenuto un lungo processo di unificazione europea, quindi da nemici in guerra sono stati diventati partner europei, e quindi il tema delle riparazioni e del pagamento era abbastanza delicato per i rapporti tra stati che erano dentro la stessa compagine di alleanza e di rapporti amichevoli tra di loro. E certo, questo aspetto ricorda un po' la ragion di Stato che venne evocata ad esempio da noi negli anni 50, quando si trattò di decidere se e come agire nei confronti della Germania, a proposito poi di quello che sarebbe stato l'armadio della vergogna e la scoperta delle vittime civili delle stragi nazifasciste. A un certo punto si impose una decisione politica, cioè quella di non aprire un contenzioso con la Germania, quando la Germania era parte attiva ormai delle potenze occidentali, anche in chiave antisovietica, se vogliamo. Sì, lo stesso percorso possiamo anche vedere nel caso della Grecia. Anche nella Grecia, alla fine degli anni 50, criminali di guerra tedeschi venivano amnistiati prima che si facesse un trattato di associazione con la comunità europea economica. Anche per quanto riguarda il tema delle riparazioni, la Grecia era abbastanza indulgente per quanto riguarda i governi di destra che si erano susseguiti. Però si arrivò ad un indennizzo nel 1960 che prevedeva il pagamento di 115 milioni di marchi tedeschi alle vittime greche del nazionalsocialismo. Solo che con questo indennizzo non era legato una riparazione per tutti i danni di guerra che sono stati immensi. Certo, poi è molto difficile, immagino, valutarli a distanza di così tanti anni. È difficilissimo, ma nonostante ciò qualcuno lo fa, e dipende anche dal tasso di interesse che si calcola. Per esempio, calcolando il prestito forzoso imposto dalla Germania nazista alla Grecia anche per pagare la guerra italo-tedesca in Africa settentrionale, si arrivò alla fine della guerra ad una cifra di mezzo miliardo di marchi tedeschi del Reich, che forse oggi si aggirerebbero attorno ai tra 7 e 13 miliardi di euro, calcolando un tasso di interesse di 5-6%. Bene, grazie professor Chignan, abbiamo finito il nostro tempo, la ringraziamo moltissimo e buona serata. Buonasera. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la Memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato all'introduzione dei carri armati. In Francia, nel 1916, una nuova e terrificante macchina letale fa la sua comparsa in occasione della Prima Guerra Mondiale, con lo scopo di schiacciare le difese tedesche e porre fine a 2 anni di sanguinosa guerra di trincea. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 6 maggio alle 22 su History Channel. Andy Roberts Show, storico. Nel 1916 la Grande Guerra era a un punto morto. Si combatteva una guerra di trincea. C'era una linea di trincee con britannici e francesi da un lato e tedeschi dall'altro. Il risultato è una rete di trincee di 700 chilometri costituita da filo spinato e mitragliatrici, che provoca morte e distruzione in Belgio e in Francia. Ancora lo storico Robert Shaw. La tecnologia del 1916 si basava sostanzialmente sulla fanteria, che era vulnerabile alle mitragliatrici e ovunque era supportata da trincee e filo spinato. Sin dall'inizio del conflitto, tutti sapevano che doveva esistere un modo per superare il filo spinato, le trincee e le mitragliatrici. I britannici ritengono che la soluzione sia da trovare nei veicoli cingolati. Ma l'idea di un'arma mobile sul campo di battaglia non è certo una novità. Dagli elefanti da guerra di Annibale ai disegni di Leonardo da Vinci, fino alle corazzate fantascientifiche di H.G. Wells. I britannici lanciano un programma di armi top secret denominato The Tank Project, spingendo le spie tedesche a credere che si tratti di sistemi per trasportare l'acqua. Ma la realtà è ben diversa. Si tratta di macchine letali mobili. David Fletcher, storico. A rendere il carro armato così importante nella Prima Guerra Mondiale è il fatto che, per la prima volta, si ha la combinazione di elementi come una corazza sottile, una fonte di energia e la tecnologia dei cingoli. Il 29 gennaio 1916, i britannici inaugurano il primo carro armato della storia, il Mark I. Dotato di 2 enormi cingoli lunghi 20 metri, il Mark I è in grado di attraversare la più ampia delle trincee e può essere armato di 2 cannoni navali con proiettili di quasi 3 kg o 4 mitragliatrici Vickers letali. Le ruote posteriori garantiscono la stabilità. Ma è lento ingombrante. E per portarlo in battaglia è necessario l'intervento di un equipaggio numeroso. Ancora lo storico Fletcher. Ognuno di questi carri armati conteneva di norma 8 uomini. 4 di loro si occupavano delle armi e gli altri 4 erano tutti impegnati nella guida. La battaglia della Somme, combattuta per più di 5 mesi nel 1916, rappresenta il tentativo del comandante britannico Douglas Haig di porre fine a 2 anni di stallo. A settembre è già costata agli alleati oltre 300.000 uomini. Per fermare questa carneficina, Haig ricorre alla sua nuova arma. Andy Robertshaw, storico. Venne presa la decisione di impiegare i carri armati non appena fossero disponibili. Entreranno in battaglia a nord del fiume Somme. Per il suo attacco, Haig ha arruolato 200.000 uomini. Più di 700 pezzi d'artiglieria. E 49 dei suoi nuovissimi carri armati. Si scontreranno con oltre 100.000 soldati tedeschi trincerati in un fronte di 11 chilometri. Ma per poter lanciare il suo attacco principale, Haig deve prima eliminare una minaccia al suo fianco, cacciando i tedeschi dal bosco di Dalville. Per la prima volta nella storia della guerra saranno i carri armati a condurre l'attacco. I 3 carri armati della compagnia D partono prima del crepuscolo. Gli equipaggi affidano le loro vite a queste nuove armi mai sperimentate. In pochi istanti un carro armato ha un guasto e non è in grado di proseguire. Un altro si blocca su un terreno accidentato. Solo un carro continua l'attacco, quello soprannominato dal suo comandante, il capitano Aaron Mortimer, Daredevil, il temerario. Quella mattina sembrava tutto così irreale. Non pensavo che il mio carro armato sarebbe stato il primo al mondo a sparare. Ho visto molti lampi provenire dal bosco. Detti l'ordine di aprire il fuoco con uno dei cannoni. Riuscii ad attraversare una trincea, ma subimmo un colpo diretto che ruppe i cingoli. Tutti e 3 i carri armati sono andati persi, ma la fanteria prende il bosco di Dalville, aprendo la strada all'attacco principale di Haig con le sue 200.000 truppe alleate che avanzano lungo un fronte di 11 chilometri. Il loro obiettivo, i villaggi fortificati di Courcelette, Morval e Flair. Per la prima volta i carri armati condurranno un attacco di massa di fanteria. La loro missione? Schiacciare il filo spinato e arrestare il fuoco delle mitragliatrici, consentendo così alla fanteria di avanzare e prendere d'assalto le trincee tedesche. Dopo un massiccio fuoco di sbarramento, i carri armati avanzano lentamente in piccoli gruppi verso le linee tedesche. David Fletcher, storico. All'interno del carro armato le cose non erano molto piacevoli. Non solo si sentiva un fortissimo rombo proveniente dal motore, che si trovava giusto al centro, ma questi tubi di scarico, che espellono i fumi dalla parte superiore, erano così caldi che non si potevano toccare. Al buio si riuscivano a vedere, perché diventavano praticamente incandescenti, e si sentiva il calore che dai tubi si irradiava sulla pelle. Mentre ci si avvicinava alla linea del fuoco, il terreno si faceva sempre più irregolare e il carro armato rallentava. Il carro armato del tenente Basil Enriquez si avvicina alla terra di nessuno al punto di non ritorno. Abbiamo dato il nostro primo sguardo a quello che sembrava un terreno impossibile. C'era un cratere praticamente in ogni metro di terreno. Era come un mare in tempesta fatto di buchi. Dopo un centinaio di metri, George si fermò per dei problemi al motore. Non riusciva a ripartire. Andy Robertshaw, storico. La maggior parte dei carri armati andava in panne. Si spegneva a causa di problemi meccanici. Degli oggetti si incastravano nel carro armato, bloccando così il mezzo. Tenente BLQ Enriquez, compagnia C, sezione pesante Machine Gun Corps. Lungo un pendio molto ripido accadde qualcosa al carro armato di Archie. Mi comunicò di essere fuori combattimento e che dovevo proseguire da solo. Di tutti i carri armati impiegati, solo 9 rimangono operativi. Con loro c'è il tenente Arthur Arnold e il suo carro armato soprannominato Dracula. Il percorso era ormai una successione di crateri. Era elettrizzante il modo in cui il carro armato scendeva in un cratere, bloccava i cingoli sulla parete opposta e ne usciva. Ancora lo storico Robert Shaw. Ci si ritrovava in un comparto oscuro mentre si avanzava salendo e scendendo. Si rischiava di cadere, a meno che non ci si tenesse a qualcosa, ma lì dentro si muoveva tutto. L'artigliere Alfred Reifer si trova in un carro della compagnia D che, avvicinandosi lentamente alle trincee tedesche, individua un grave problema. Un pallone da osservazione tedesco che potrebbe innescare un temibile attacco da parte dell'artiglieria e fermare così l'avanzata dei carri armati e della fanteria. Deve essere distrutto immediatamente. Percy Bolt mi disse entusiasta che stava per sparare a un pallone da osservazione tedesco. Vennero sparati diversi colpi e Bolt mise a segno un colpo diretto. Un gruppo di carri armati apre una breccia nella terra di nessuno e punta sulla linea del fronte tedesco, dove centinaia di difensori sono scioccati nel vedere questi mostri di metallo avvicinarsi. Ralph Ratz, storico. Nel 1916 i tedeschi non avevano idea che il nemico stesse lavorando sullo sviluppo del carro armato, quindi rimasero lì a fissarlo e la prima cosa che notarono fu il rumore. Perché i carri erano molto rumorosi, non avevano idea di cosa fossero, nessuno aveva visto un carro armato prima di allora. Molti non avevano mai visto neanche un'automobile. Iniziarono a sparare anche loro con mitragliatrici e fucili. I primi carri armati del mondo hanno quasi raggiunto le linee tedesche e stanno per affrontare la loro più grande prova sul campo di battaglia. David Fletcher, storico. I proiettili delle mitragliatrici si abbattevano sul carro armato. Sembrava di stare in una scatola di latta sotto una grandinata. Era un rumore di morte. Tenente BLQ Enriquez, compagnia C, sezione pesante Machine Gun Corps. Mentre ci avvicinavamo, facevano fuoco su di noi con tutte le loro forze. Poi un colpo sul lato ha fatto entrare delle schegge che mi hanno fatto sanguinare il viso. Tenente A.E. Arnold, compagnia D, sezione pesante Machine Gun Corps. Dracula raggiunse la linea per primo. Dal parapetto spuntò una fila di tedeschi che guardava con un certo stupore quello che si stava avvicinando nel buio del bombardamento. Ralph Ratz, storico. Nel 1916 i tedeschi non avevano idea che il nemico stesse lavorando sullo sviluppo del carro armato. Nessuno aveva visto un carro armato prima di allora. Iniziarono a sparare anche loro con mitragliatrici e fucili. Ma fu tutto inutile. La paura di essere schiacciati era forte. Tutti avevano la profonda paura di essere schiacciati. I soldati svilupparono quella che in tedesco si chiama Panzerangst, la fobia dei carri armati. Tenente A.E. Arnold, compagnia D, sezione pesante Machine Gun Corps. Continuavamo ad avanzare. Il carro armato era sopra la trincea e lì ci fermammo. Mentre i cannoni Vickers sparavano al nemico a destra e a manca. Poi riprendemmo l'avanzata. Andy Robertshaw, storico. Sebbene non si possa dire che i carri armati abbiano vinto la guerra, la loro presenza è stata molto importante per gli alleati. Fanno parte di quell'insieme di fattori che hanno portato alla vittoria finale. L'avvento dei carri armati ha cambiato radicalmente il modo di fare la guerra. Una volta tirati fuori dalla scatola, non è più possibile rimetterli dentro. Il motto del corpo corazzato inglese è: attraverso il fango e il sangue ci spingeremo fino ai verdi campi. È questo che hanno cercato di fare durante la Grande Guerra. Ed è questo che volevano ottenere. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Le battaglie dei giganti, la Grande Guerra. Regia di Paul Kilbeck, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione GA&A. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 6 maggio alle 22 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.